5. Il respiro del bosco era un grido di spettri. Joseph camminava da settimane, solo, vestito da cacciatore, nulla di indiano che potesse tradirne l'origine. Passo dopo passo, la sensazione di pericolo montava, cresceva nella pancia, pesantiva le membra più del carico d'armi provviste. Muscoli contratti in nodi dolorosi, respiro incapace di distendersi. I sentieri per Okwaga erano una sola, interminabile ascesa. Un orso incrociava la sua pista da giorni. L'aveva udito nel dormiveglia. Ne aveva veduto i segni sui tronchi di pino, zampate lasciate a mo' di firma. Era l'orrenda del nemico, odio mutato in zanne e artigli. La presenza della fiera si avvertiva tutt'intorno, in certi momenti sembrava di poterne cogliere l'odore. L'orso seguiva le tracce, a volte anticipava il cammino dell'uomo. Joseph si aspettava di vederlo apparire nell'ombra del sottobosco. In realtà l'orso, animale solitario, era la minaccia meno grave che percorreva quei boschi. La più pericolosa delle fiere si muoveva in gruppi, senza alcuna accortezza, lasciando tracce evidenti, come non temesse nulla, come a sfidare la sorte. Uomini bianchi, miliziani Whig, ribelli, razziatori a caccia di bottino. Si sentivano padroni in terra indiana e si sentivano al sicuro. Il respiro del bosco era un coro che non potevano udire. Voci di antenati, generazioni trascorse, carne divenuta vermi e cibo per animali, schiere d'uomini falcidiate dal vaiolo e dalle guerre combattute per conto di alleati distanti. Quei boschi, pensò Joseph, appartenevano ancora agli indiani. Avrebbero rigettato gli estranei come il corpo, con l'aiuto di una buona medicina, scaccia la malattia. Quella terra custodiva le ossa degli avi e gli avi di Joseph erano stati fedeli alla corona. La medicina che avrebbe risanato la terra era l'armata del re. Joseph Brant era stato educato ad amare gli inglesi. Ora che i ribelli si facevano chiamare americani, si sentiva sollevato. L'umidità impregnava i vestiti. Il cibo era consumato in fretta. La marcia non conosceva soste. Fatica che legava le gambe e pesava sul petto. Joseph si fermò per bere e prese fiato, appoggiato al fucile. Una fuga di uccelli fece stormire i rami dei pini. Doveva muoversi in fretta, al limite della capacità di un uomo. Il mondo era un luogo pericoloso. Doveva raggiungere la meta. Okwaga e Unadilla erano villaggi amici. I parenti prossimi e lontani si contavano a decine. Da lì sarebbe partita la riscossa. Doveva raggiungere la madre, la moglie, i figli. Guardare in faccia la carne e il sangue, il versante vivo e concreto dell'ideale per il quale aveva scelto di combattere. Se si fosse distinto in quella guerra, gente come Klug non avrebbe più potuto allungare mani rapaci sulla roba dei Mohawk. La madre sarebbe morta in pace e sarebbe stata terra Mohawk a custodirne le ossa. Joseph pensò al suo popolo. Dai giorni della sua infanzia erano morti molti più Mohawk di quanti ora fossero in vita. Philip aveva ragione. Due palazzi di Londra avrebbero potuto contenere tutto il popolo della Selce. Era ormai sera. La luce arancione del sole filtrava tra i rami. I giorni a venire si preannunciavano scuri come la marcia nel folto del bosco. Joseph desiderò avere al proprio fianco Le Grand Diable. L'orso apparve d'improvviso, in piedi, troncando la rincorsa di pensieri. I peli si rizzarono sulla schiena. Joseph spianò il fucile. L'orso mandò un bramito, voltò le terga, sparì nel folto del bosco. Joseph passò il dorso della mano sulla fronte. Un piccolo orso nero, dall'aspetto ben poco minaccioso. Gli occhi dell'uomo e quelli dell'animale si erano incrociati. Forse non era un presagio cattivo, forse voleva dirgli qualcosa, metterlo allerta. Doveva procedere con cautela, stare attento a non lasciare tracce, rinunciare al riposo finché le narici non avessero fiutato aria di casa. Erano molti, occupavano tutta la radura. Joseph trattenne il respiro, nascosto dalla siepe di rovi che copriva il fianco della collina. Rinunciare al grasso d'orso era stata una buona idea. Da quella distanza, se il vento fosse mutato, l'odore avrebbe tradito la sua presenza. Nel gruppo c'erano molti indiani. Joseph non poteva dire a quale nazione appartenessero. Nella semioscurità non riusciva a coglierne i tratti. Potevano essere Mingoes o Delaware, addirittura Oneida. Erano distanti 40 passi e parlavano piano. Non così bianchi, che scambiavano commenti ad alta voce mentre allestivano il campo per la notte. L'incontro aveva cancellato la stanchezza delle membra e conferito nuova lucidità alla mente. retrocedere senza fare rumore, allontanarsi dalla radura, fare un giro largo, riprendere il sentiero molte miglia più a ovest. Joseph si raccomandò alla clemenza divina e si mosse. Percorse l'ultimo tratto del viaggio con la circospezione di una lince. La vicinanza di casa lo rendeva sempre più forte. Tra poco, la solitudine del viaggio sarebbe stata alle spalle. La solitudine, il destino più triste per un uomo, sarebbe rimasta nella pancia del bosco. I cani abbaiavano, ma Joseph era tranquillo. Presto lo avrebbero riconosciuto e l'avrebbero accolto, appoggiando le zampe sul petto, cercando di lavargli la faccia linguate come facevano sempre. La luce fioca di una lampada a petrolio filtrava dal legno sconnesso che chiudeva la finestra. La porta si aprì, lasciò intuire l'ambiente domestico, liberò odori di vita pacifica. Un ragazzino robusto uscì all'aperto con un bastone in mano e si rivolse all'estraneo mentre i cani facevano ridda attorno alle sue gambe. «Chi è là?» Joseph sorride, ma la voce uscì cupa e severa. «Non riconosci tuo padre, Isaac?» Il giovane rimase muto, in piedi. L'abbraccio di Susanna sciolse la tensione del viaggio. Joseph annusò il profumo dei suoi capelli e cullò il respiro caldo sulla spalla. La moglie gli accarezzò il volto, come volesse sincerarsi che fosse davvero lui. Le dita sfiorarono rughe e cicatrici, percorsero il profilo in una lenta sequenza di tocchi e carezze. «Joseph!» Era troppo stanco anche per parlare. Abbandonò la sacca sul pavimento e crollò su una vecchia sedia. Cristina si avvicinò titubante al padre, che la prese sulle ginocchia. La bambina nascose la faccia nel suo petto. Isaac continuava a fissarlo, i tratti serrati in un'espressione enigmatica. Susanna si affrettò a portare cibo caldo. Gli occhi di Joseph incontrarono quelli della madre. L'anziana donna era seduta nell'angolo più lontano della stanza, avvolta in una coperta azzurra. «Quanti scalpi francesi hai portato, Joseph?»